Mi tengo un abbraccio sincero, ancor prima di partire. La luce che accende al mattino, il verde dei crinali. Mi tengo l'odore dei cassetti, tavole da imbandire. Siamo tornati sui 103.1, puntualissimi, siamo sempre Lucri, Carlotta e Yogi, anzi Lucri e... le sorelle Müller. Non cambiate oggi, rimanete fissi sulle sorelle Müller, ma appunto è una puntata piena di cose molto belle, tra cui l'intervista che andremo a fare subito. Abbiamo appena ascoltato Mi Tengo di Alessio Ciclo, che appunto tra pochissimo sarà con noi sui 103.1. È appena uscito il suo EP d'esordio del cantautore calabrese di Stanza a Bologna, che appunto pubblica il suo EP Solo un dovere, che è un viaggio formativo nel vero senso della parola, che è un giro di boa verso la maturità. È un disco che rappresenta il passaggio dall'università al mondo del lavoro, dalla giovinezza all'età adulta. Sono 5 brani che sono la fotografia di un momento di cambiamento, ma anche di consapevolezza. Già voce e chitarra dei La Brain e degli Einstein on the Beach, e c'è scritto Beach. Capisci perché questa parte l'ho fatta dire a te. Grazie. Dal 2016 si concentra sulla stesura di brani dallo stampo cantautorale, con i quali muove i suoi primi passi nei locali del capoluogo emiliano. Solo un dovere è il suo EP d'esordio, contenente 5 brani inediti incentrati sulla vita dei fuorisede. E allora diamo il benvenuto ad Alessio Ciccolo, che è in collegamento sui 103.1. Ciao Alessio! Ciao, ciao a tutti! Come stai? Bene, bene, grazie. Stavo seguendo la vostra puntata. Bravissimo! Quindi sei anche tu d'accordo su fare una puntata divertente? Sì, ci sta. In questo periodo è importante ridere. ma soprattutto anche come noi portiamo avanti anche Fujiko a Radio Città Fujiko, ma soprattutto con Fujiko la musica non si ferma mai, quindi siamo molto felici di averti qui con noi oggi. E partiamo subito con la prima domanda. I tuoi brani, diciamo, sì, che sono vestiti di nostalgia perché raccontano non il qui e ora ma ciò che è stato. Solo un dovere è, diciamo, che quindi è un prologo, le tue cinque canzoni sono accomunate dalle contraddizioni del diventare adulti. Cosa significa tutto questo per te? Allora, in realtà queste canzoni sono arrivate un po' per caso, perché appena arrivato qui a Bologna, visto che sono un calabrese, arrivato qui per studiare, avevo intenzione di scrivere un disco sulla vita dei fuorisede, proprio una sorta di concept album, un po' come si faceva negli anni 70. Solo che poi per un momento non sono riuscito più a scrivere nulla, niente, poi mi sono ritrovato queste canzoni in mano, che in realtà appartengono a un momento precedente alla partenza, quindi al momento in cui stavo decidendo di partire per Bologna, e un po' c'era l'aria del cambiamento, ma ancora le cose non erano cambiate. Il tuo EP è un connubio tra gli elementi tipici del cantautorato italiano e il sound d'oltremanica. Quali sono i tuoi artisti di riferimento? Allora, in questi anni ho ascoltato chiaramente tanta musica, non soltanto questi due riferimenti che hai detto tu, ascolto molta musica classica, jazz, eccetera, però mi sono avvicinato più al cantautorato dopo aver ascoltato i dischi di Nicola Fabi, di Colapesce e di Martino, e poi da lì ho approfondito dischi che già avevo conosciuto in passato della vecchia scuola cantautorale. E poi sì, visto anche le precedenti esperienze musicali, ascolto tantissimo musica inglese, alternative, come i Radiohead o i Porcupine Tree, quindi sì, questa influenza musicale cerco di farla sentire nei miei brani. Ma ti faccio una domanda che è d'obbligo, essendo tu calabrese, un Brunori Sas? Sì, ascolto moltissimo Brunori, apprezzo tanto quello che ha fatto, soprattutto negli ultimi due dischi. Diciamo che anche lui ha questo sapore tradizionale della musica italiana, sì, c'è anche lui un po' in questi riferimenti, soprattutto A Casa Tutto Bene. Ma tra l'altro, tu, dopo aver detto il jazz, ti sei meritato come base gli Aristogatti. Tutti quanti vogliono fare il jazz. Voglio fare in jazz. Devi assolutamente averla in sottofondo in questa intervista. A me incuriosisce tantissimo che comunque la tua idea del concept album era appunto, no, scrivere della vita da fuorisede. Noi siamo due fuorisede su tre in questo programma oggi. Esatto, e quindi in realtà anche il nostro Fujiko Factory è spesso questo contenitore dal lunedì al giovedì, dove siamo quasi tutti fuorisede, quindi parliamo un po' della vita da fuori sede, quindi mi incuriosiva tantissimo un intero album su questo. Sì, no, è una cosa che ci sto lavorando, devo affinare un po' di brani e poi niente, poi vorrei andarlo a produrre in studio, però appunto mi sembrava più necessario fare una sorta di cartolina, anzi una sorta di carta d'identità di questo progetto, e quindi ho fatto uscire l'EP prima e poi il disco che ha bisogno di più attenzioni, ecco. Assolutamente. Poi, come giustamente dicevamo, esce l'EP, ma poi c'è tutta anche la lavorazione dietro, ad esempio, del videoclip. Tu hai fatto uscire il videoclip dei Balconi, che è il brano che ascolteremo tra pochissimo, che è opera del regista Francesco Sergi. Questa canzone prende spunto da uno, diciamo, dei trem topic, come Lucri scrinna cose, si scrinnavano i balconi e queste scritte sui balconi, o comunque, non so, la cantata alle 6 dal balcone. Quindi il balcone è stata una cosa molto importante nel primo lockdown, forse un po' anche adesso. Per te cosa rappresenta il brano? Allora, intanto fammi precisare che il video ancora non è uscito, uscirà la prossima settimana, e niente, in pratica sì, sono partito da questa idea, anzi questa immagine che tutti noi abbiamo avuto intorno nel primo lockdown, che era le cantate dal balcone, i discorsi anche fra vicini di casa che non si conoscevano ma che non avevano nessun altro con cui parlare. E invece a me l'immagine del balcone mi ha revocato immediatamente delle vicende passate, e da lì ho spaziato un po' con l'immaginazione, ho ricordato momenti anche legati a un'amicizia che appunto inizialmente si sviluppava sui due balconi che erano vicini nella mia vecchia abitazione a Reggio. Infatti anche a me questa cosa dei balconi ricorda quando ero piccola e appunto avevo i vicini di casa, e quindi stavamo reciprocamente sui propri balconi e giocavamo così. Oppure anch'io, appena mi sono trasferita nella seconda casa qua a Bologna, che c'erano due vecchiettini che praticamente sono i miei dirimpettai, e quindi mi hanno dato il buongiorno e il benvenuto nel quartiere, ed è una cosa che mi piace tantissimo. Quindi la mattina quando mi sveglio saluto i vecchiettini dal balcone. Quindi effettivamente il balcone è una cosa che abbiamo sempre avuto, ma forse adesso, più limitati a casa, abbiamo rivalutato. Quindi è bellissima l'idea di scriverci un brano. Sì, poi non so se anche tu vieni dal sud, però... Dal nord, molto nord. No, però magari da giù spesso vedi i parenti, oppure la nonna, la zia appoggiata sul podio che ti dice di tornare a casa, oppure di venire a prendere da mangiare o che è pronto per il pranzo. Quindi è tutto, diciamo, un immaginario ricorrente. O addirittura quelli che ti lanciavano il cestino, ti facevano calare il cestino, sì, con la merenda, sì, dal balcone. Che da noi si chiama Panaro, se ti interessa. Che non è un fiume. È giusto. È giusto la terminologia. E a proposito di terminologia, nel tuo disco si può trovare questo mantra: crescere è solo un dovere. Sì. Cosa vuol dire? A dire il vero, è anche cioè il titolo dell'EP è stato deciso all'ultimo minuto, perché non avevo un nome questo EP, solo che il balcone è stata scritta praticamente alla fine, ed è in qualche modo un sunto, una sintesi di quello che era il mio pensiero sull'EP. Cioè il fatto che crescere o diventare grandi non è per forza qualcosa di negativo, qualcosa che ti porta a lasciare indietro dei pezzi o necessariamente avere o perdere quella dimensione infantile che ci contraddistingue, anzi ci deve servire da monito e aiutarci a vivere meglio le sfide successive. Quindi per questo è crescere solo un dovere, cioè non è cioè andare avanti, diventare grandi è auspicabile, però sempre tenendoci dentro le nostre dimensioni più infantili, più ludiche. Però rimanendo sempre comunque fuori sede, perché io penso che anche se ormai vivo da anni a Bologna, rimarrò nell'anima sempre una fuori sede. È una bella condizione quella di essere fuori sede, perché ogni giorno puoi essere turista e cittadino della città che ti accoglie praticamente, non smetti mai di impararla, di imparare i suoi segreti, come nel caso di Bologna, oppure di conoscere varie zone della periferia, e questo ti stupisce sempre. È vero, anche perché Bologna è una città che anche ieri abbiamo fatto un Fujiko Factory raccontando i segreti di Bologna, e sì, Yogi in realtà è di Bologna, però effettivamente comunque si può continuare a conoscere una città, che comunque è una città che cambia sempre, incontra sempre nuove persone, e quindi insomma è un po' la bellezza di Bologna. Sì, è vero, è vero. Sì, come dicevi tu, è cangiante come città, lo è, penso, sempre stata, soprattutto negli ultimi anni, ed è il motivo poi per cui molte persone si fermano qui e riescono ad ambientarsi. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che tra pochissimo sui nostri canali social troveranno anche un tuo mini live per Fujiko Factory. I nostri social in questo modo diventano un grande palco virtuale, perché abbiamo detto la musica non si ferma, non si deve fermare, soprattutto in questo momento. E quindi cosa pensi di questa situazione? Guarda, da un punto di vista sono di due idee, nel senso che non ho trovato tanto utile l'incombenza da parte del governo di chiudere tutte le attività artistiche e culturali, perché alla fine si è dimostrato, appunto, come diciamo, inutile chiudere questi tipi di attività, che comunque durante l'estate, nei primi mesi successivi, avevano comunque lavorato bene, erano ben organizzate. Dall'altro punto di vista, credo che per quanto riguarda i musicisti emergenti sia servito un po' da setaccio, nel senso che chi ha delle idee e continua ad averle manda avanti i propri progetti musicali, chi fa della musica una sorta di discorso edonistico e basta, si ferma, perché è un momento critico, un momento in cui è difficile trovare delle sale prove, è difficile andare in studio. E soltanto chi ha veramente voglia, chi ha questa passione, riesce a continuare e ad andare avanti. Certo, e noi allora ringraziamo Alessio Ciccolo anche per questa tua testimonianza, e ti facciamo ovviamente un enorme in bocca al lupo. E soprattutto torna a trovarci quando appunto uscirà il molto tuo volentieri. Album, ma intanto porta avanti questo EP che è veramente molto bello. Infatti noi adesso ci ascoltiamo un altro brano, anche nell'attesa che appunto esca il videoclip, che siamo molto molto molto curiosi. E poi appunto vi ricordiamo che lo potete ritrovare sul nostro sito www.radiocittafujiko.it, ma soprattutto al nostro palco virtuale di Instagram. Grazie ancora, ci ascoltiamo I Balconi. porta socchiusa che non ho il coraggio di aprire. Le liste infinite di libri e di film, le birre per ogni ai concerti, le storie d'amore nascoste a fatica, le notti giù in piazza, dei sogni da eterni. Resta che qualche sospiro affannato, strozzato dalla routine. E ora che il vento è cambiato, il tempo ha innalzato dei muri, amico cammina con me verso casa, come quando sognare bastava. Crescere è solo un dovere, una regola da trasgredire.